Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Super super diretta, eccoci qua. 18:45 minuti primi, in compagnia di Andrea, questa improvvisata serale. Spero che tutto vada per il verso giusto, insomma, che la giornata sia trascorsa in maniera decente, discreta. Spariamo nell'etere giusto qualche canzone, così, tanto per divertirci un attimo, per ascoltare della bella musica. Ricordo ancora il mio sito www.andreamangianotti.com, lì trovate per ora in formato provvisorio il mio blog. Se volete farci un giro, se invece volete scriverci, c'è ovviamente la chat di Spreaker Radio attiva per parlare con il sottoscritto oppure semplicemente per interagire con la trasmissione. Potete lasciarci un messaggio anche lì. Partiamo immediatamente con la prima canzone di Star Trek, Viaggio nella storia della musica, un brano direi un po' anomalo per quanto concerne questo gruppo. Sto parlando degli Squallor, che negli anni 70 e negli anni 80 ci deliziavano con canzoni prettamente ironiche, demenziali, eccetera eccetera, però in questo disco sono tutt'altro che demenziali, anzi veramente bravi, perché ricordano per certi versi il grande Fabrizio De André, e poi c'è questo clavicembalo che mi fa veramente impazzire. Vi regalo la prima canzone di Star Trek Viaggio nella storia della musica in versione preserale improvvisata. Loro sono gli Squallor con Sono una donna, non sono una santa. Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Fra 3 mesi te lo prometto, che il mio amore tu l'avrai, ti assicuro, non è un dispetto, ogni cosa a suo tempo lo sai. Non sono sola, ho 4 fratelli, non scordare che ho 4 fratelli. Dove sei stata, la gente ti guarda, resta in casa, la gente ti guarda. fra tre mesi saremo in maggio e il mio amore ti darò. Gesù mio, dammi coraggio di resistere e dirgli di no. Donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Sempre bravi gli Squallor, che questa volta ci hanno regalato una canzone un po' anomala per quanto concerne il loro stile. Il titolo del brano era Sono una donna, non sono una santa, canzone che, come in precedenza avevo annunciato, ricorda per certi versi, insomma, il modo di cantare di Fabrizio De André. E poi anche loro utilizzano questo clavicembalo stupendo che ci fa impazzire. Ah, mi ricorda anche un po' i Cugini di Campagna, eh? Mi ricordava un po' anche i Cugini di Campagna. Vabbè, bravissimi, bravissimi veramente gli Squallor per questo piccolo gioiello che ci hanno regalato. Canzone non famosissima, insomma, che non tutti conoscono, però direi è stato un ascolto pregevole e mi auguro anche divertente. Notizie che ci giungono dal web. Minacce e offese alla pornostar Roberta Gemma, condannato il youtuber salentino Giuseppe Simone. Articolo reperito dal quotidiano di Puglia. Il youtuber di Neviano Giuseppe Simone, 42 anni, è stato condannato a 9 mesi di reclusione con l'accusa di aver diffamato e minacciato la pornostar Roberta Gemma, 35 anni, in Frascati. Nell'udienza di questa mattina la pornostar si è presentata nell'aula della seconda sezione penale davanti al giudice con un fuso attillatissimo ed un corpetto che ha rischiato di distrarre le parti sull'oggetto del processo. Insomma, ci ricordano certi film comici, no? Il youtuber Giuseppe Simone è stato condannato appunto anche al risarcimento dei danni in sede civile. Aveva pubblicato diversi video su YouTube in toni deliranti tra un rap e un parlato, a volte ha minacciato di morte la Gemma ed il suo compagno. Altre volte invece le ha dedicato dei versi apparsi come riferimenti espliciti ad avere rapporti sessuali con lei. Anche per questo la pornostar si è sentita offesa. Il pubblico ministero onorario ha chiesto la condanna ai 6 mesi di reclusione. La soluzione è stata invocata invece dagli avvocati di Giuseppe Simone. Perché chi non conosce Giuseppe Simone, vi dico subito che è un rapper molto trash. Dal 2008 fa un sacco di video su YouTube molto divertenti, in chiave comica, ironica, autoironica, quindi è facile capire che queste minacce non erano senz'altro veritiere, diciamo così, era semplicemente un suo modo goliardico per scherzare. Però, come si sa, come vi ho scritto anche Giuseppe nel suo Facebook, al giorno d'oggi il perdono è diventato un optional. Andiamo tutti nelle messe grandi, le messe della domenica, di essere buon cristiani. Quando ne usciamo invece siamo tutt'altra cosa. Vabbè, questa è la notizia che ci giunge dal web. E ora per voi un po' di disco music con questo bel brano di Kool & The Gang. Il titolo è Love Festival. Come on, dance. We'll be dancing. Because we have been a party. We gonna dance and groove all night. Rhythm working through your body makes you move and groove them all night. Come on, baby, come on to the love festival. And we will dance and groove all night. Come on, baby, come on to the love festival. We're gonna party till the morning light. Festival, Kool & The Gang, con questo brano bellissimo. Kool & The Gang ci hanno regalato un sacco di grandi successi, veramente a cavallo dagli anni 70 agli anni 80. 57 minuti primi dopo le ore 18, è quasi l'ora di cena, però noi siamo qui a divertirci su Spreaker Radio. Io sono Andrea, vi do ancora una volta tutti i vari riferimenti della trasmissione, il mio sito www.andreamangianotti.com oppure il mio account Twitter, che è il seguente, chiocciolina te mangia, scritto THE mangia, scritto all'americana. Lì potete seguirmi e potete leggere quello che posto. Poi vi ricordo anche il mio blog, sempre accessibile tramite www.andreamangianotti.com. anche visitando questo sito potete appunto navigare nelle pagine del mio blog, del mio Instagram, eccetera eccetera eccetera. Come prosegue la vostra serata? Spero sarete insomma in fase cena, chiamiamola così. In quest'ora di solito si cena sempre tutti insieme, magari con i propri cari. Vi ricordo che questa è Star Trek, siete a bordo dell'astronave Enterprise, dove leggiamo qualche notizia curiosa reperita dal web. Ora ve ne leggiamo un'altra e poi ascolteremo un'altra canzone, sempre qua ovviamente in diretta su questa bella bella piattaforma. Facebook, sempre più persone si cancellano, ecco perché. La notizia è tratta da Blitz Quotidiano Online, un vero e proprio progetto sociale ideato da Marin Stratov, che invita tutti a rinunciare al social network per 99 giorni. Tutti gli utenti che partecipano all'iniziativa dopo 99 giorni ammettono di sentirsi meglio. Facebook ha da poco festeggiato il miliardo di utenti, eppure inizia a sentire la crisi. Pare proprio che sempre più persone si stiano staccando dalla realtà parallela che il social network più diffuso al mondo crea. Alla base ci sarebbe un vero e proprio progetto sociale ideato per l'appunto da Marin Stratov, che invita tutti a rinunciare al social network per 99 giorni. Tutti gli utenti che partecipano a questa iniziativa ammettono per l'appunto di sentirsi meglio. I dati che ne escono fuori sono molto interessanti e saranno analizzati dall'Università di Amsterdam per capire esattamente quale emozione scatena Facebook nelle persone. L'idea che molte persone rinunciassero a Facebook è molto interessante, ha commentato appunto l'ideatore di questo progetto. Anch'io ho smesso e, come moltissime persone che hanno aderito all'iniziativa, mi sono sentito liberato. Mi sono ritrovato molto più tempo per fare le cose che volevo veramente e mi sono reso conto che prima passavo molto tempo a guardare cose che facessero gli altri, ora invece meno. E voi siete pronti a stare 99 giorni senza Facebook? Se sì, allora cercate di essere convinti il più possibile, visto che tra la prima e la 24esima settimana di mancato uso dei social emerge una crisi di astinenza che spesso porta l'utente a ripiombare nel mondo virtuale con forza e veemenza che mai. Questi sono i VIP italiani più amati appunto di Facebook, e c'è una foto che ritrae il buon vecchio Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti si può considerare il numero uno, se si considera che il numero uno appunto del web, che si considera anche viene seguito da appunto su YouTube e anche su Twitter. Siete tutti pronti a fare questo esperimento sociale? Se la risposta è sì, non vi rimane altro che provare questa esperienza che chissà dove vi porterà, dove ci porterà. Voi che ne dite? Ora continua la maratona musicale, passatemi questo termine un po' strano, appena inventato. Dopo un successo appunto di musica anni 80, facciamo un altro tuffo indietro nel tempo, negli anni, e questa volta ci trasferiamo agli anni 70, fine anni 70, con questa bella canzone. Siete tutti saldamente sintonizzati su Spreaker Radio a bordo dell'astronave Enterprise con Andrea. Buona serata a tutti e buona cena. Yeah. Siete sempre all'ascolto di Star Trek, un po' di disco music non guasta mai. Purtroppo siamo quasi al termine della nostra trasmissione, leggiamo ora una notizia invece molto interessante e direi anche molto bella: boom di donatore di sangue tra i giovani. Articolo è tratto dalla provincia pavese online. I donatori di sangue, età compresa tra i 18 e i 28 anni, appunto, sono cresciute del 27%. Se infatti nel 2010 su 425.000 iscritti alla federazione i giovani erano circa 57.000, i dati del 2015 ne registrano quasi 73.000. Un dato entusiasmante, sottolineato Aldo Ozzino Calligaris, presidente nazionale della FIDAS, che dimostra l'attenzione profusa da tutte le associazioni federate che hanno lavorato in modo sistematico riuscendo ad ampliare il coinvolgimento delle nuove generazioni, una sfida che è stata lanciata proprio a partire dal 2010 e che ha dato il via a un percorso virtuoso e che al termine di questo quinquennio ci permette di raccogliere frutti importanti. I dati sono stati presentati in apertura al meeting nazionale Giovani FIDAS, un appuntamento giunto alla 17esima edizione, che si prefigge di formare giovani donatori dai 18 ai 28 anni, ma anche un momento di confronto e scambio di strategie fra i giovani delle 73 realtà associative presenti sul territorio nazionale. Nel corso del 2015 inoltre il rapporto tra maschi e femmine nel donatore del 18-28 ha visto crescere le donazioni in rosa rispetto alla media nazionale. L'incremento maggiore della presenza giovanile inoltre si è registrato nelle regioni dell'Italia centro-meridionale. Bella, bella cosa, insomma. Noi vi ricordiamo anche l'Avis, appunto, che permette appunto di donare il sangue direttamente agli ospedali, quindi, come si suol dire, fate una bella azione, non sentite niente, ve lo posso garantire, non vi fa male assolutamente, non sentite neanche pungere, e donando il sangue veramente aiutate molto molto gli ospedali della vostra zona. Ora invece andiamo avanti con un meraviglioso e splendente David Bowie. Non ricordo se la canzone parte subito, forse c'è un piccolo intro, un piccolo buco come lo chiamano i DJ, quelli famosi. Comunque, una canzone che amo molto di David Bowie arriva subito, mentre sono proprio in questo istante le 19:10. Siete sempre a bordo dell'astronave Enterprise con Andrea e state ascoltando Star Trek. Sto parlando proprio perché la canzone parte ora, è un vinile, eccolo qua, David Bowie. Now Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. Played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to braid our bones? Or just the fear light to guide us? So we fixed around his pants and shut with crutches. Could he play guitar? Making love with Sempre, sempre meravigliosa questa canzone di David Bowie, Ziggy Stardust, ed è anche l'ultima canzone di Star Trek Viaggio nella storia della musica e mia compagnia. Grazie veramente a tutti per l'attenzione e ci ritroveremo ancora prossimamente per un'ennesima trasmissione, insomma, per un ennesimo viaggio nella storia della musica. Eccola qua, arriva anche la nostra base, la base di conclusione. I miei ringraziamenti a tutte le persone che si sono fatte del male ascoltandomi, siete un po' sadici, diciamo così. No dai, sto scherzando. Un preselare come sempre improvvisato. Noi ci ritroviamo ancora da queste parti per un ennesimo viaggio nella storia della musica. In conclusione vi ricordo che questa trasmissione girerà al web. La potrete riascoltare in versione registrata, in versione podcast su Spreaker, oppure anche sul mio sito www.andreamangiarotti.com nella sezione blog. Potete riascoltarvela tranquillamente, potete insomma apprezzare le canzoni che vi ho proposto questa sera. Grazie a tutti per l'attenzione, noi ci ritroviamo non so quando, a sorpresa nel palinsesto di Spreaker Radio. Da Andrea è tutto, buona cena a voi. Io vado a prepararmi un buon caffè, una mazza caffè e una bella fumata di pipa. E sei veramente in pole position questa sera. Grazie ancora a tutti, eh? Passate una bella serata. Ciao, ciao. Oppure una buona giornata se ci ascoltate di giorno. Ciao a tutti, ciao.